Soldi dentro le nostre vite, nelle scatole delle sneaker, vecchi e brutti con belle fighe, tutti quanti sopra le righe. Non succede la prima volta, la seconda ti senti in colpa. Fari gialli nel mare posso, sui miei tagli il tuo sale grosso. Non ho mai pregato, non ho mai letto la Bibbia. Solo in questo inferno come a Pripyat, bianco come un teschio davanti a una doppia tibia. Morirò da solo con la scimmia. Faccio corna, no sfiga. Questo cognac, tossina. Giorni neri, diossina. Non mi vedi giozzina. Non mi fotte di ste troie, non vengo alle feste. T'ho già preso dentro casa tre droghe diverse. Hai mai visto Gessler, Mickey Rourke? Su telefono notifiche, chiamate perse. Sento ancora vento anche se ho preso le compresse. Tutta questa gente non mi serve a niente. Hai mai visto Gessler, Mickey Rourke? Lo sai come ci si sente, non mi tiri su. Non mi tiri su. Nebbia di provincia scende fitta. L'aria alta si glicia, sembra finta. Fumo un big blunt, tipo un Kit Kat. Fra cammino a zigzag. Torno a casa ancora lì, ehi. Il Titanic suona lì, non brindo quando tutto quanto con la pic, ehi. Bene e male come un libro, li divido solo che non li distingo, ehi. Sono come Dorian Gray, peggio di come loro mi dipingono. Da solo, solo insieme alla mia clica. Da quando fumavamo per ripica, nascosti in Veneta di casa ninja. Caccia dentro l'invicta poi nell'ispac. Un giorno al sole 10 chiuso in clipa, ehi. Pensavo sto meglio da solo, una vita d'eremita chiusa in una torre d'avorio. Ma con la corona da loro. Fallo pieno, Marsala, dentro il gelo, Varsavia. Sangue nero, cascata, e anche vedo la strada. Non mi fotte di ste troie, non vengo alle feste. T'ho già preso dentro casa tre droghe diverse. Hai mai visto Gessler, Mickey Rourke? Su telefono non ti chiamate perse. Sento ancora freddo anche se ho preso le compresse. Tutta questa gente non mi serve a niente. Hai mai visto Gessler, Mickey Rourke? Lo sai come ci si sente? Non mi tiri su, non mi tiri su.